Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, quale volete che sia il tema oggi, visto che ieri sera il governo alle 9 passate ha illustrato la riforma del mercato del lavoro, chiaramente è il tema della giornata. Devo dire che c'è anche una borsa che va maluccio, soprattutto a Milano, uno spread in leggero rialzo, ma vanno male le generali, il dividendo dimezzato, utili dimezzati, pesano sul Leone di Trieste non solo le svalutazioni per le partecipazioni in telco, ma anche e soprattutto le svalutazioni per le obbligazioni greche, e il titolo perde il 5%, Mediaset prende una mazzata meno 4,60, Unicredit meno 3,70 sotto i 4 euro per azione, Mediobanca meno 2,80, Intesa meno 2,20, Popolare Milano meno 2, come Monte dei Paschi, Fiat meno 1,80, come A2A. L'1,60 è il calo di Parmalat e della Popolare Emilia Romagna, l'1,50 quello di Prismian, l'1,30 quello di Lottomatica, bene il Banco Popolare più 2,80, Buzzi c'è più 1,5, Terna più 1, Pirelli più 1% come Tods, euro quota 1,32, meglio fanno le altre borse, Parigi perde solo lo 0,12, Francoforte è invariata e Londra pure. Londra 0,07, sapete che è l'indice preferito nostro per Londra, l'America meno 0,20%. Allora, parleremo ampiamente, avremo il nostro ospite il senatore Pietro Ichino del PD, il professor Della Ringa, c'è chi studia il mercato del lavoro e si occupa di proporre riforme da anni. Devo dire che affronteremo tutti gli aspetti di questa riforma, ce ne sono alcuni che obiettivamente rappresentano un miglioramento rispetto al passato. Penso per esempio ai costi per il lavoro a tempo determinato, costa un po' di più l'impresa fare un contratto a tempo determinato, penso anche però al reintegro economico, l'indennizzo economico tra le 15 e le 27 mensilità è un livello molto alto in Europa, ma ne parleremo poi con Ichino. Sullo sfondo, chiaramente, capire se questa riforma, che secondo moltissimi osservatori, anche del PD, lo dico a chi sta già scrivendo, porta l'Italia con un modello contrattuale simile a quello europeo, capire se questo poi porterà anche una crescita del paese. Secondo aspetto, e poi partiamo con le notizie in breve, alcuni di voi hanno scritto, immagino siano lavoratori autonomi, in queste settimane, quando parlavamo della lotta all'evasione, alcuni di voi l'hanno scritto in maniera anche un po' così monotematica, maniacale su Facebook, ecco, si difende sempre la spesa pubblica, si difende sempre il pubblico impiego, si vanno a colpire solo gli artigiani, i piccoli imprenditori con questo governo, i commercianti. Allora, fermo restando che la spesa pubblica italiana va ridotta e soprattutto va resa più efficiente, oltre che essere ridotta, attenzione, perché se è vero che sulle partite IVA, sul pubblico, sul lavoratore lavoro autonomo c'è una stretta di controlli fiscali, di lotta all'evasione e quant'altro, faccio notare che tutto il lavoro dipendente ha beccato la riforma delle pensioni da un lato, l'IMU, ICI è una cosa che si applica a tutti purtroppo perché è sulla prima casa, e adesso anche dei contratti, una riforma del modello di lavoro. Questo a dire, una tesi che sapete che sta molto cara a chi conduce questo programma, che se Monti scontenterà tutti avrà possibilità di farcela, lo diciamo da novembre, ossia se andrà a ridurre, a riformare privilegi o comunque situazioni che riguardano il pubblico impiego, il settore privato, i lavoratori autonomi, i professionisti, gli ordini professionali, le categorie che hanno un grande potere di lobby, le categorie protette, se farà questo, allora riuscirà, creando scontenti da una parte ma contenti dall'altra, perché è chiaro che tu sei contento quando colpiscono qualcun altro, sei scontento quando colpiscono te, in questo modo, con un gioco a somma zero, diciamola così, riuscirà ad andare avanti, perché nessuno potrà sentirsi vittima e basta. Se tutti sono vittime, praticamente non ci sono vittime. e soprattutto non ci sono privilegiati. Alcuni di voi potranno obiettare che alcune categorie, penso alle liberalizzazioni, penso agli avvocati, ai notai, anche ai farmacisti, l'hanno fatta franca. Abbiamo criticato il governo per questo, si doveva essere più incisivi su questo, ma attenzione, attenzione, se Monti continua così sta facendo in 4 mesi riforme che il governo precedente e anche il governo del centro-sinistra precedente, pur con diverse maggioranze, diversi periodi di tempo, non sono riusciti ad approntare. È inutile sentire ex ministri dire noi abbiamo fatto le riforme, ma quali? La riforma Gelmini sull'istruzione è l'unica che riconosciamo al governo precedente. Attenzione che sono passati 4 mesi da quando si è insediato e abbiamo già la riforma delle pensioni, le liberalizzazioni, la riforma del mercato del lavoro, vedremo come andrà in Parlamento, la delega fiscale e adesso ci aspettiamo tutti quanti anche la benedetta fase 2. Detto ciò, e la lotta all'evasione, e l'abbassamento, e l'uso delle carte di credito, e i controlli incrociati, e Befera che sta simpatico a tutti. Le notizie in breve. Allora, il pubblico impiego, vedo che il pubblico impiego è coinvolto da questa riforma, lo ha chiarito poco fa un'agenzia. La riforma si applica a tutti, non solo ai dipendenti privati. Attenzione, io so che poi quando uno pensa all'articolo 18 pensa al, diciamo, all'operaio della Fiat, diciamo tutto, ma questo vale anche per i dipendenti della pubblica amministrazione. Adesso vi arriveremo, faremo quasi una puntata monografica su questo. E poi lo stipendio dei dirigenti della pubblica amministrazione. Oh, abbiamo fatto intere puntate sugli stipendi fuori norma, dal capo della polizia al direttore dei monopoli, ve lo ricordate, no? Nessuno sta difendendo il pubblico impiego, abbiate pazienza. Andiamo avanti comunque. I titoli della borsa li abbiamo detti, segnalo che va molto bene visto che le banche oggi sono negative, il Banco Popolare più 3%, Buzzi Unicem più 1,80%. Prima di arrivare alla riforma del mercato del lavoro, ancora due notizie che riguardano chiaramente i mercati a livello internazionale. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha detto di essere pronta ad agire se la situazione europea dovesse peggiorare ulteriormente. Ha detto però che gli swap della Fed con la Banca Centrale Europea sono molto vantaggiosi. Le prospettive di una perdita sugli swap con l'Europa sono molto basse, l'ho detto Ben Bernanke, che è il numero uno della Federal Reserve, e ha però detto no, non acquisteremo il debito dei paesi europei in difficoltà. Lo ha detto sostanzialmente mentre parlava in audizione alla Camera assieme al segretario del Tesoro americano Timothy Geithner. E intanto negli Stati Uniti la proposta di tassazione minima al 30% sui miliardari, sostenuta non solo dal presidente americano Barack Obama ma anche da Warren Buffett, il miliardario, il grande investitore, che ha detto paghiamo troppo poco. I miliardari in America, oltre che fare molto beneficenza, ammettono anche di pagare troppo poco. Da noi quando... Vabbè, non fatemi parlare di questa cosa perché... Andiamo a vedere il caso, ma l'avete visto il caso recentemente di un verlese Montresor, dichiarazioni pari a zero, ma insomma qua quando vengono beccati nullatenenti con milioni di euro evasi hanno sempre un buon motivo, magari di solito è che lo Stato è inefficiente quindi è giusto non pagare le tasse. Andiamo avanti, dicevo, la riforma di Barack Obama che consentirebbe di raccogliere circa 47 miliardi di dollari in 10 anni, secondo il rapporto del Congresso, ha poche possibilità di essere approvata perché i repubblicani sono tutti contrari. Tuttavia, una qualche forma di maggiore tassazione sulle grandi ricchezze sarà al centro della prossima campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo autunno. In Gran Bretagna la corporation tax, la tassa che si applicherà alle imprese, scenderà fino al 22%, e quindi la Gran Bretagna fa politica industriale, è quello che manca ancora al governo Monti. E cioè riduce le tasse sulle imprese, le scenderà fino al 22% entro il 2014, sarà, e questo servirà, ha detto il cancelliere scacchiere George Osborne, per rendere più vantaggiose le imprese britanniche rispetto ai loro concorrenti europei. Lo spread è tornato a 300 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni è tornato al 4,98%. Tra l'altro di questo, sullo spread italiano, è intervenuto il presidente della Banca Europea degli Investimenti, Werner Hoyer, che ha detto: siamo rimasti favorevolmente colpiti dagli esiti molto promettenti degli sviluppi politici e economici in Italia, siamo pronti a dare aiuto per il successo dell'Italia. I must say I'm very much impressed. Sono molto colpito da ciò che è stato fatto nel giro di pochi mesi in Italia. Si è avviato un percorso di riforme molto profondo e sono consapevole del fatto che gli italiani stanno facendo molti sacrifici. Credo però che ne valga la pena per raggiungere l'obiettivo finale. Quanto fatto finora da Mario Monti viene molto rispettato sia in Europa che altrove e sarà così anche in futuro. Inoltre, l'Italia ha solide fondamenta industriali e un forte sistema di piccole e medie imprese. Inoltre, abbiamo visto sviluppi politici ed economici notevoli e promettenti per il futuro. Credo che siamo sulla strada giusta, anche nel processo di cooperazione con le istituzioni italiane, e sosteniamo le piccole e medie imprese. Dopo il disastro di Lehman Brothers, la BEI è stata chiamata a fare di più e lo ha fatto aumentando l'attività dei prestiti. Ora però c'è una crisi diversa. C'è la crisi dell'euro, c'è il problema dell'occupazione e della competitività. Penso che l'Europa sia sulla strada giusta. Naturalmente c'è ancora molto da fare, soprattutto sul fronte dei conti pubblici. Gli Stati stanno percorrendo una fase di consolidamento delle finanze pubbliche, ma ora si deve passare ad attuare le condizioni sufficienti per la crescita, puntando su innovazione e occupazione. Ed è qui che il ruolo della nostra banca diventa significativo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, ci è venuta in mente di nuovo la nostra rubrica per due motivi. Il primo è, io devo ricitarlo, perché ieri mentre discutevamo con Massimo Cacciari è passato un po' in cavalleria, ma insomma... si parla sempre nelle grandi imprese italiane di governance, si fanno i convegni e poi scopriamo che San Raffaele era un buco, un pozzo nero quanto a bilancio, non sulla bravura dei medici, ci mancherebbe, e che il grande Ligresti ha creato altro che una galassia, un buco nero. Ma la cosa impressionante su Ligresti, io ci voglio tornare perché mi fa impazzire. Tra il 2003 e il 2010 Salvatore Ligresti, che è proprietario, presidente, azionista di maggioranza della Fondiaria SAI di Milano Assicurazioni, ha percepito lui stesso 40 milioni di euro a titolo di compenso per la consulenza che ha prestato alle società di cui è primo azionista e presidente. Una cosa incredibile. Praticamente l'amministratore delegato della Fondiera SAI, Fausto Marchioni, che Ligresti aveva nominato, ha chiesto a Ligresti di fargli da consulente, che è bellissima questa, no? E infatti però lo ha fatto senza interpellare il consiglio di amministrazione, senza neppure attivare le procedure previste per le operazioni con parte correlate. Allora, voglio dire, ma ve la immaginate il proprietario di un'azienda che poi chiede all'amministratore legato all'azienda che lui stesso ha nominato di fargli un contratto da consulente, così prende 40 milioni di euro in 7 anni. Ma la cosa più bella è la risposta di Unipol. Unipol sta comprando Fondiaria SAI, no? È stata anche molto aiutata da un po' di stampa, guardavano sempre il fondo Palladio, il fondo Sator con un po' di sospetto. Insomma, Unipol ha già fatto sapere che quando e se rileverà il controllo di Fondiera SAI non farà azioni legali contro gli ex vertici della Fondiera SAI, contro i Gresti. Che bontà! Si vede che l'Italia sta cambiando, si va verso la primavera, si va verso la Pasqua e Unipol è così gentile che non ci pensa proprio a fare un'azione, un contenzioso contro i 40 milioni che praticamente i Gresti si è autoassegnato come consulente della società che di cui è presidente e anche proprietario. Che bello vivere in un mondo fatto di pace. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Una buona notizia invece arriva dalla SIA, azienda specializzata nella progettazione di servizi tecnologici, visite gratuite, senologiche e ginecologiche durante l'orario di lavoro alle oltre 300 dipendenti donne. Seconda edizione realizzata con il contributo della Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Dal 22 marzo fino al 4 giugno le dipendenti della SIA potranno sottoporsi sul luogo di lavoro e durante l'orario di ufficio a visite gratuite, chiaramente senologiche, ginecologiche, all'esame del PAP test. Domanda: perché non la fanno anche le altre aziende? Io vorrei sentire su questo, perché mi sembra una cosa bellissima. Ho ancora una notizia su questa strana crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Compro oro. Allora, ne abbiamo parlato molte volte. Pensate che sono quadruplicati negli ultimi due anni i negozi compro oro. Sono circa 6.000 ed erano sostanzialmente meno di 2.000, erano 1.500 circa due anni fa. Giro d'affari di 3 miliardi l'anno, si è passati da un rapporto di un esercente ogni 13.000 abitanti, cioè prima, nella situazione normale, prima della crisi, c'era un comproro ogni 13.000 abitanti, adesso c'è un comproro ogni 6.000 abitanti e la situazione va a aumentare. Ma stanno diventando una lobby anche loro, anche i negozi di comproro. Perché lo dico? Perché ci hanno scritto una lettera, l'hanno scritta tutti, alla radio, al Sole 24 Ore, alla direzione, molto minacciosa devo dire, dicendo: siamo un raggruppamento di negozi compro oro, dovete smetterla di pubblicare quotazioni sbagliate, occorre che pubblichiate quotazioni più basse. Okay. Per i lingotti dovete pubblicare quotazioni di almeno il 20% più basse e le vostre quotazioni teoriche, leggo testualmente, non sono commerciabili, a noi creano solo confusione nei privati che devono vendere, cioè il privato va con le quotazioni che legge su Sole 24 Ore e dice no, l'oro vale questo. Dovete smetterla, le monete marenghi, sterline e pesos devono essere valutate come rottame, pertanto al di sotto del puro contenuto di un buon 20%, le altre monete devono essere quotate un 30% meno del contenuto d'oro puro. Ci rivolgeremo, pertanto contestiamo le vostre pubblicazioni e ci rivolgeremo ad uno studio legale a nostra difesa se continuerete tale disinformazione. Madonna, pure la lobby dei comproro mi mancava, però io non so, in attesa che ci facciano causa, devo citare la quotazione dell'oro di oggi, che è quella ufficiale, che è $1,653 l'oncia, al di là di quello che poi offrono i compro oro. Primo tema, compro o vendo lavoro. La riforma del mercato del lavoro. C'è chi dice: ma siete molto polemici oggi con Ligresti. Polemico con Ligresti? Ma che sta scherzando? Ho trovato un po' singolare che il proprietario e il presidente di Fondiera SAI si sia fatto attribuire dall'amministratore delegato Fausto Marchionni, da lui nominato, un contratto di consulenza da 40 milioni di euro per 7 anni. Non è che poi se attacchiamo i politici va sempre bene e se attacchiamo Ligresti no, eh? Allora, la riforma del mercato del lavoro, domani alle 16, no, ma CGIL è pronta allo scontro, Monti, domani alle 16 ci sarà un incontro, ma il governo ha fatto sapere che questo è il pacchetto che andrà in Parlamento. Tra l'altro la CGIL ha 16 ore di sciopero, l'Italia dei Valori ha avvertito: siamo pronti ad un Vietnam parlamentare, ma tanto loro non appoggiano il governo, nel PD posizioni contrastate. Vediamo cosa prevede la riforma del mercato del lavoro, anche se molto se ne è parlato. Flessibilità in entrata, tenere la flessibilità buona, fuori la cattiva, il passaggio del ministro Fornero. Noi vogliamo per questi contratti tenere quella parte di flessibilità buona che in essi è rispecchiata e invece cercare di contrastare anche duramente quella parte che porta al precariato e che noi chiamiamo di flessibilità cattiva. Noi vogliamo apprendistato come formazione professionale. Questo è il contratto dominante. Gli altri non li buttiamo via. Il tempo determinato serve. In molti casi il tempo determinato è dipendente, quindi va bene. A tempo determinato, cosa vogliamo qui? Vogliamo dire che quella è una flessibilità in più che è data alle imprese. La flessibilità vale. Le imprese sono chiamate a pagare per questa flessibilità. Pagheranno un 1,4% in più, che è un contributo che noi utilizzeremo per finanziare un altro pezzo importante della riforma, che è l'indennità di disoccupazione. Poi ci sono altre forme di flessibilità che sono, come voi sapete, il contratto, la collaborazione a progetto, i lavori somministrati. Adesso non voglio entrare in tutte queste tipologie. Che cosa abbiamo noi rispetto a queste tipologie? Una presunzione di tenere la flessibilità buona, ma di contrastare quella cattiva. Non cancelliamo delle tipologie contrattuali, salvo praticamente una, che è l'associazione in partecipazione, che limitiamo di fatto nell'ambito familiare con praticamente tra padre e figlio. Allora, cosa prevede la riforma varata dal governo? Una stretta sui contratti a progetto, quelli intermittenti, costerà di più per le imprese fare il tempo determinato. Con l'impianto qui dice questo: se tu non regolarizzi assumendolo il lavoratore, ti costa un po' di più. Ieri il ministro Fornero ha detto in maniera molto chiara: il contratto dominante è quello a tempo indeterminato. E quindi una maggiorazione dell'1,4% sui contratti a termine, e dopo 36 mesi scatta l'assunzione a tempo indeterminato. Rafforzato anche il contratto di apprendistato, che diventa la via maestra per l'ingresso nel mercato del lavoro. Stop agli stage gratuiti e giro di vite. Stage gratuiti non se ne faranno più, anche perché lo sappiamo tutti che sono una forma di lavoro gratis mascherato. Prendi uno che si è laureato, che ha fatto un master, e lo usi come un lavoratore normale, solo che lo paghi zero perché è in stage. E poi giro di vite sulle partite IVA che nascondono i rapporti di lavoro subordinato. Anche qui, così alcuni la smetteranno di fare i furbi e fare partite IVA, persone che sono lavoratori dipendenti. Devo dire che un plauso va al ministro anche per aver eliminato per legge la firma dei contratti in bianco. Molte donne sono obbligate a firmare contratti in bianco, per cui sostanzialmente se poi restano incinte, vogliono fare dei figli, hanno già firmato il loro licenziamento. Facciamo sentire i contratti della Fornero sui contratti in bianco, perché poi vorrei anche, avendola molto criticata in queste settimane, difendere il ministro, che è attaccato da sinistra più che da destra, pur essendo lei molte volte nostro ospite negli anni passati, esponente, diciamo così, di una cultura liberale, liblab, non certo della cultura fascista del padrone, eppure non va giù. Comunque, il ministro Fornero sul via ai congedi di paternità obbligatori e anche l'eliminazione dei contratti in bianco. Poi ci sono gli interventi per una maggiore inclusione delle donne nella vita economica. Qui c'è una norma contro le dimissioni in bianco. L'abbiamo messa nel capitolo interventi per una maggiore inclusione delle donne, non perché pensiamo che questo riguardi soltanto le donne, non siamo così ingenui, ma perché pensiamo che riguardi soprattutto le donne. Ma è chiaro che questa norma, che tende a contrastare, noi speriamo in modo veramente efficace, le dimissioni in bianco, si vale nei confronti di chi, qualunque lavoratore sia costretto a firmare un foglio in bianco che il datore di lavoro poi tira fuori in un momento successivo per dirgli: caro, ti sei dimissionato, punto. Infine c'è per l'occupazione delle donne una sperimentazione di congedi di paternità che finanziamo noi, Ministero del Lavoro, per 3 anni, congedi di paternità obbligatori, che è un modo per anche qui far cambiare una mentalità, che la maternità è una questione che riguarda le donne e invece riguarda la tutela dell'occupazione delle donne, ha molto a che fare anche col fatto che gli uomini intendano che c'è condivisione nell'ambito della famiglia. Allora, ha ragione un ascoltatore, non sono in grado di rispondere però. E cioè, immagino che sia un imprenditore, dice, ma allora se io assumerò una persona in sostituzione di un'altra che è in maternità, la classica sostituzione di maternità, dovrò pagare come se fosse un tempo determinato qualunque, quindi l'1,4% in più? Non lo so, perché è chiaro che in quel caso tu assumi un tempo determinato perché sei obbligato, perché quando la persona rientra dalla maternità ti torna la lavoratrice. E qui forse non sarebbe corretto, visto che l'obiettivo è di far pagare un po' di più i tempi determinati in modo da scoraggiare le imprese dall'utilizzare il tempo determinato per non fare l'assunzione a tempo indeterminato. Comunque, meteo, pubblicità, poi gli altri aspetti di questa vicenda e un accenno all'insopportabile attacco, devo dirlo veramente, a cui il ministro è sottoposto, perché non è possibile però che ogni volta che in suo paese si tenta di riformare il mercato del lavoro, sapete la mia posizione, non è che con l'articolo 18 arriveranno tutti questi investimenti, non penso che sia quello, riguardo al 3% delle imprese che cambierà i destini del paese, però non è possibile che se uno prova a riformare con modelli più simili al resto d'Europa il mercato del lavoro deve diventare per forza un fascista, uno schiavo dei padroni, essere minacciato dalle BR e via così, Meteo. Focus Economia. 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco arriviamo anche ai mercati e poi avremo Pietro Ichino e Carlo Della Ringa. Una risposta rapidissima al 349-238-6666. Barisoni, non la riconosco più. Questa riforma è troppo sbilanciata a favore delle imprese. Allora, ma servirà davvero? Ho chiarito, penso decine di volte, che secondo me non è con la riforma dell'articolo 18 che arrivano gli investimenti degli stranieri. Sarebbe ugualmente, se non anche più importante, la riforma e la sicurezza e i tempi della giustizia civile per quando fai un investimento. Però non è vero che le imprese l'abbiano presa bene. Hanno ingoiato il rospo come cheese the wheel e l'hanno fatto sapere. Tant'è che adesso ne parleremo con Ichino, ma insomma l'indennizzo per il licenziamento di carattere economico è, da quello che mi risulta, uno dei più alti a livello europeo, cioè costa parecchio, dalle 15 alle 27 mensilità, aumenta il costo per il tempo determinato. Non mi sembra che sia tutta sbilanciata a favore delle imprese. Giro di vite sulle partite IVA che nascondono rapporti di lavoro subordinato, stop agli stage gratuiti, l'obbligatorietà dopo 36 mesi di assumere a tempo indeterminato. Non mi sembra. Due, attenzione, io ho solo detto, non è possibile che in questo paese ogni volta che si tocca il mercato del lavoro l'accusa è di quelle che hanno conseguenze anche tragiche, come nel caso sì di Marco Biagi, che tutti ricordiamo, ci mancherebbe, ma anche di D'Antona, Ezio Tarantelli, qualcuno se lo ricorda? Allora, il ministro Fornero sulla flessibilità in entrata l'abbiamo ascoltata, adesso ascoltiamola anche sulle partite IVA e il giro di vite su un utilizzo che non ha confronto, ha detto la Fornero. Voi sapete che le partite IVA nel nostro paese hanno una dimensione che non ha confronti rispetto al resto d'Europa. E noi sappiamo anche che spesso dietro le partite IVA si nascondono in realtà quelli che sono veri e propri rapporti di lavoro dipendente mascherato da partita IVA, che costa meno, non paghi i contributi. Allora noi lì vogliamo agire in maniera presuntiva. Se ci sono delle tipologie, per esempio un unico committente che praticamente ti dà tutto il reddito, un reddito non elevato, lavoro nel luogo del committente, questo sembra tanto un lavoro subordinato che ha la copertura della partita IVA. E quindi in questi casi dobbiamo ancora vedere se la sanzione è trasformazione immediata del contratto in contratto di lavoro dipendente con recupero anche dei contributi in passato, oppure una sanzione paragonabile, lo definiremo con le parti, ma quello che le parti hanno accettato, qui ovviamente parlo dei datoriali, è che il contrasto è secco e severo. I datoriali vuol dire Confindustria e le imprese per l'Italia, cioè hanno dovuto, tra virgolette, ha fatto capire a Fornero, digerire il fatto che il contrasto e la multa, o addirittura l'obbligo a trasformare il contratto, arriverà e basta. E questo non è che faccia piacere alle imprese, magari alle piccole, che usano spesso le partite IVA come al posto dell'assunzione o del contratto tout court. Arriviamo all'articolo 18, che poi è tutto lì, la polemica grossa è sempre sull'articolo 18, però mi interessava anche ascoltare un passaggio del ministro sugli ammortizzatori sociali, perché se ne è parlato meno, ma insomma, 1.119 euro al mese per 12-18 mesi, con il disincentivo, o meglio, con l'incentivo a trovarlo un lavoro, perché il problema di questo paese è che quando tu becchi poi la cassa integrazione in alcuni casi non sei incentivato, invece in questo caso scende, come negli altri paesi europei. Più tempo ci metti a trovare un lavoro, più scende, e poi lì esistono le agenzie di job placement a cui uno si può rivolgere, ce ne sono, funzionano anche molto bene alcune. Quindi dicevo, 12-18 mesi, ogni 6 mesi scende però questo assegno del 15%, e si chiamerà ASPI, entrerà a regime dal 2017, e questa assicurazione sociale per l'impiego si affiancherà alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione straordinaria, che però non saranno più utilizzate e utilizzabili se chiude l'impresa. Si passa direttamente all'ASPI, non si può più chiudere l'impresa e mandare in cassa integrazione. La Fornero. L'assicurazione sociale per l'impiego è il vecchio assegno di disoccupazione, razionalizzato ed esteso, universalizzato. Quindi la cosa importante qui è l'obiettivo di rendere universalistico uno strumento che sia a difesa del lavoratore nei periodi di disoccupazione. La difesa del lavoratore non è soltanto una integrazione monetaria, cioè gli paghi una indennità. La difesa del lavoratore è anche, forse soprattutto, l'attivazione di politiche che richiedano al lavoratore di essere attivo e quindi, per esempio, di non rifiutare certe occupazioni che gli vengano eventualmente offerte, oppure certi corsi di formazione, e da parte del pubblico privato fornire queste politiche in modo attivo, anche in questo caso, in modo che il lavoratore non sia lasciato solo in un deserto, perché allora è difficile trovare una nuova occupazione se sei lasciato solo, per di più in un deserto. Allora, questo è l'ASPI. La durata dura molto meno che non la mobilità. L'ASPI dura molto meno, nel senso che l'ASPI per i lavoratori fino a 54 anni dura un anno e ha un décalage, cioè è all'inizio fino a un massimo che oggi è di 1.119, ma dopo i primi 6 mesi subisce una decurtazione del 15% e subisce una ulteriore decurtazione di un ulteriore 15% sull'85% nel successivo semestre per i casi di concessione di ASPI fino a 18 mesi. Allora, adesso ci sono informazioni sul traffico, poi ascolteremo anche quella sull'articolo 18, il passaggio sull'articolo 18. Voi sapete che in questo programma, come regola, non si dicono mai le parolacce, perché è una fascia che non mi interessa. Però c'è un ascoltatore che scrive: Fornero al cimitero, lei è un coglione. E glielo dico anche un'altra volta, se vuole. Così come potrei usare lo stesso epiteto per l'ex segretario di Liberto, che si è fatto fotografare oggi con una sostenitrice, chiaramente, del suo partito, con la scritta, con la maglietta Fornero al cimitero. In un paese che ha conosciuto le Brigate Rosse e che ha visto morti e uccisi 3 giuslavoristi, e ho fatto i nomi, Tarantelli, D'Antona e Biagi, scrivere una cosa del genere per una riforma del mercato del lavoro è inqualificabile. Si vergogni. Traffico e poi torniamo in diretta. Focus Economia. 17:50 minuti di nuovo in diretta. Allora, facciamo la borsa, poi ascoltiamo anche il ministro Fornero sull'articolo 18, il segretario Camusso, Pietro Ichino e gli altri. La borsa. -1,30%, soprattutto mentre le altre borse hanno chiuso o in parità o leggermente positive, soprattutto per colpa, tra virgolette, di Generali, -4,60%, Mediaset -4%, Unicredit -3,30%, Mediobanca -2,40%. Leonore Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Andiamo rapidi, Generali, di mezza il dividendo, di mezza l'utile, il titolo va male. Va male, i conti sono risultati deludenti e non sono servite a niente le dichiarazioni dei vertici della compagnia, che hanno detto che quest'anno è previsto un utile in forte rialzo. Peraltro hanno escluso anche aumenti di capitale, a meno che non ci siano in vista operazioni di acquisizione. D'altra parte, appunto, le rassicurazioni non sono valse a molto, visto che gli analisti hanno giudicato assolutamente deludenti i conti del 2011. Ancora vedo un messaggio che va bene, attenzione a scrivere certi messaggi perché io poi ve li giro direttamente all'autorità della pubblica sicurezza. Se dite che Biagi ha fatto la fine che si meritava e la Fornero dovrebbe fare la stessa fine, state attenti a scrivere in questo programma questi messaggi perché non le tollero certe cose, siamo chiari? Stai parlando di persone che sono morte per le loro idee, eh? Allora, a chi scrive e i messaggi li vediamo, andasse a scrivere da un'altra parte, vuole parlare con Diliberto che ha avuto un successo politico, che non ha più il partito, lui avrà bisogno dell'articolo 18, se... visto che sta disoccupato, vada da Diliberto, ma non scriva in questo programma messaggi che sono un'incitazione all'omicidio, perché li giriamo alle attività, alle autorità di pubblica sicurezza. Chiaro, chiuso il tema, andiamo avanti. Leonora, scusami per l'interruzione, Mediaset, -4%. Mediaset, anche in questo caso ovviamente sono i conti del 2011, l'utile è calato del 36% a 225 milioni, è stata data una sforbiciata anche alla cedola che è passata da 35 a 10 centesimi e soprattutto le previsioni per l'anno in corso sono abbastanza cupe. In effetti, se le condizioni macroeconomiche non miglioreranno, e sappiamo bene che l'Italia è appena entrata in recessione, i vertici di Mediaset hanno detto che l'utile netto di quest'anno sarà ancora peggiore di quello del 2011, quindi proprio per questo Mediaset ha perso il 4%. Che fa un po' il paio con quanto era successo due giorni fa con Mondadori. In questo scenario, beh, chiudiamo su Unicredit, però dammi poi anche il Banco Popolare più 3,25, perché bene si è mosso, -3,30 Unicredit, -2,40 Mediobanca, -2% Monte dei Paschi, -2 anche Intesa San Paolo e -1,70 la Pop Milano, bene dicevo il Banco Popolare più 3,20. Esatto, oggi sono andate male tutte le banche perché lo spread è tornato sopra i 300 punti, anche il rendimento dei titoli di Stato ha ripreso a salire, sappiamo che le banche sono piene di titoli di Stato e quindi un andamento sfavorevole diciamo le penalizza. C'è stata l'eccezione, il Banco Popolare, come hai detto tu, che è stato invece premiato proprio per i conti del 2011, conti molto apprezzati dal mercato, superiori alle attese, del resto il dividendo prima, senza tener conto delle rettifiche sul bilancio, sarebbe balzato dell'86% a 574 milioni. Allora, adesso c'è il GR, poi di nuovo i mercati. A chi ci chiede se questa riforma del mercato del lavoro vale anche per il pubblico impiego, vedo un ascoltatore, sì, l'abbiamo specificato, è netto il giudizio, la riforma del mercato del lavoro vale anche per il pubblico impiego. 349-238-6666 per i vostri sms. Eleonora resta con noi, il GR e poi gli altri titoli e l'articolo 18, la reazione del segretario CGL su Anna Camusso, Pietro Ichino e Carlo Della Ringa. Focus Economia. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e Eleonora Micheli. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa, poi torneremo sul tema della riforma del mercato del lavoro, del Banco Popolare abbiamo detto. In difficoltà oggi, oltre alle banche, diciamo Mediaset, Unicredit, ma anche Intesa Popolare di Milano, Mediobanca, tutte negative, con mercati europei che sono andati meglio sicuramente di quello italiano, e chiusa la vicenda Generali, mi concentrerei su Parmalat. Sì, Parmalat oggi è andata giù, ha pagato la notizia che il Consiglio di Stato ha ordinato la restituzione delle azioni della centrale del latte di Roma proprio al Comune di Roma. Quindi una notizia negativa per l'azienda che così ha perso colpi, in particolare ha perso l'1,49%. Allora, di Buzzi abbiamo detto bene, assieme a tutto il settore del cemento europeo, più 1,80. Terna ancora beneficio dei conti apprezzati e anche soprattutto il piano industriale, tra i migliori e peggiori in assoluto, Italy One Investment più 30%, Meridiana più 19% e Screen Service più 6,70%. Qui c'è una voce di mercato su Screen Service. Esatto, una voce di mercato riportata dalla stampa, ovvero che Screen Service sia nel mirino del finanziere tunisino Tarak Ben Ammar. Non sappiamo quanto sia vero, di fatto il mercato sembra crederci visto che ha premiato le azioni. E tra i peggiori, Poligrafici Editoriale meno 5,60, Generali abbiamo detto, Mediaset abbiamo detto, Banco Santander meno 3,90%. Grazie, donna Micheli. Noi torniamo con la riforma del mercato del lavoro. Abbiamo affrontato i passaggi principali dell'intervento, della spiegazione del ministro Fornero ieri per quello che riguarda la flessibilità in ingresso, quindi la riforma delle tipologie contrattuali, gli ammortizzatori sociali, quindi cosa capiterà a chi perde il lavoro. Mancava appunto la flessibilità in uscita, che è poi quella che sta scatenando polemiche, a mio avviso, in alcuni casi come in quello di Diliberto, inaccettabile. Dovrebbe vergognarsi Diliberto stesso, chiedere scusa, oltre che ammettere anche il fallimento politico suo personale. Uno può anche fare altro nella vita, non è che deve fare politico per forza tutta la vita. Hai sfasciato un partito, non sei più rappresentato in Parlamento, non so, apri un'attività, prova a vedere com'è il mondo del lavoro, quello vero. Detto ciò, articolo 18, il passaggio di Elsa Fornero. Un attimo di problemi, ecco, ce l'abbiamo. Esiste il licenziamento discriminatorio? Beh, questo deve essere punito, nel senso che non esiste proprio, è nullo. Il licenziamento a carattere discriminatorio è nullo, qualunque sia l'impresa che lo fa, quindi piccole, grandi, di qualunque tipo. Poi c'è il licenziamento definito per ragioni oggettive o per giustificato motivo economico oggettivo. In questo caso la nostra proposta prevede che non ci sia più il reintegro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma soltanto più un indennizzo, l'indennizzo onnicomprensivo compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Poi esiste il licenziamento disciplinare per ragioni soggettive. Allora, noi qui prevediamo sostanzialmente che sia il giudice a decidere secondo una certa tipologia che spinge il giudice verso il reintegro nel caso in certe fattispecie e all'indennizzo in altre fattispecie. Ma la cosa importante è che rispetto al disciplinare è il giudice che decide, e ovviamente decide il reintegro nei casi, in alcuni casi, e può decidere invece l'indennizzo in altri casi. Allora, sta parlando il segretario della CGIL Camusso, poi i nostri GR ve ne daranno conto perché è in diretta adesso, e tra l'altro insomma, proposta totalmente squilibrata secondo la Camusso, mentre poco fa il segretario della UIL Angeletti ha detto che questa riforma non si può applicare al pubblico impiego. Sarebbe sbagliatissimo a mio avviso, cioè o tutti sono sottoposti alla riforma, non è che il pubblico impiego si può chiamare fuori. Professor Carlo Della Ringa, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Su questo partiamo dal pubblico impiego e poi vorrei un suo commento generale. Lei insegna alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, ex commissario straordinario dell'ISFOL, proprio quindi sul pubblico impiego. Si deve estendere anche al pubblico impiego questa riforma? Sì, certamente. No, se no abbiamo scherzato. Sì, no, certamente. Ora che poi le norme del pubblico impiego siano particolari e abbia bisogno di qualche adeguamento, questo si può vedere, ma in principio generale è chiaro che deve valere per tutto il mondo del lavoro. E la riforma, adesso al di là dei singoli, perché poi arriverà in Parlamento, ci potranno essere modifiche, lei che giudizio dà sia sul fronte flessibilità in ingresso, quindi riforma delle tipologie contrattuali, che sul fronte flessibilità in uscita, articolo 18, e anche ammortizzatori sociali, cioè quello che capita quando uno lavoro lo perde? L'impianto complessivo è buono, decisamente è una riforma che porterà risultati positivi. Poi naturalmente ciascuno ha le proprie preferenze per una parte piuttosto che l'altra. Io personalmente vedo con grande favore l'intervento sulla flessibilità in entrata, cioè quella lotta a tutte quelle forme di precarietà che sono sotto le partite IVA, gli stage, perché se noi andiamo nei confronti internazionali, quello che ci differenzia dagli altri paesi non è la percentuale di contratti a tempo determinato, in amministrazione, apprendistato. Sulla flessibilità buona, noi siamo in linea con i paesi più virtuosi. È quel milione, non so quanto, nessuno l'ha mai calcolato, di giovani che hanno queste forme contrattuali che non sono protette da niente, né dalla legge né dai contratti. Ecco, questo è il grosso problema della precarietà. Quindi al primo posto io ci metterei tutte queste cose fatte per limitare o regolare meglio le forme di collaborazione, le partite IVA e gli stage. In secondo luogo, l'impianto degli ammortizzatori sociali è buono. Certamente siamo in un periodo di recessione in cui ci sarà bisogno di usare cassa integrazione e mobilità per impedire che tutti gli esuberi che ci saranno si trasformino in licenziamenti. Però nel medio periodo, quando ci saranno risorse, quando saremo in condizioni normali, penso che avviarsi verso questo tipo di riforma che ricalca le pratiche migliori di altri paesi vada bene. Sulla flessibilità in uscita, io penso che, e questo è il punto che sta diventando tutto il mondo sindacale, qui non so se c'è la possibilità in Parlamento di rivedere alcune cose che non distruggono l'incisività della norma, ma che permettono di far guadagnare un po' tutti. Ricordo che su certi aspetti tutti hanno un po' da lamentarsi, ricordo anche che le imprese si lamentano, dicono per esempio l'indennizzo è troppo elevato, e c'hanno ragione. La prima era 15, adesso da 15 a 27. Ricordiamo che in Spagna mesi hanno fatto la riforma riducendo l'indennizzo. Quindi attenzione che magari le imprese hanno un po' più di flessibilità nei licenziamenti, ma se poi devono sostenere tutti quei costi, bisogna stare attenti che magari molte imprese ci rimettono. Ecco, voglio dire che ci sono dei mal di pancia, dei malcontento che forse in qualche misura potrebbero essere risolti senza incidere sulla, diciamo così, i fondamentali della riforma, cioè sulla flessibilità in uscita. No, professor De Ringa, d'accordissimo con lei. Tra l'altro mi fa un po' specie, ho detto mille volte che io non mi appassiono all'articolo 18, che non penso che da lì arriverà chissà quale iniziativa della crescita, però che il dibattito su una riforma così articolata si concentri solo sull'articolo 18 e, come diceva lei, non sottolineando il costo per le imprese, perché se si passa tra 15 e 27 mensilità per un indennizzo, cioè tu per motivi economici licenzi una persona, cioè è tanto, è uno dei livelli più alti che c'è in Europa, se non ricordo male, ma nessuno sottolinea la parte a mio avviso molto buona, e quindi il bloccare le partite IVA che vengono utilizzate dalle piccole imprese, ma non solo, anche dagli avvocati, dai liberi professionisti al posto dell'assunzione di lavoro, il giro di vite anche sui contratti in bianco, il fatto che arrivi finalmente un assegno di disoccupazione che via via viene ridotto in modo da incentivare il lavoratore il lavoratore che non ha lavoro a trovarsi un altro lavoro, a rivolgersi all'agenzia di collocamento. Che sia sbagliato che se un'azienda chiude e mette in cassa integrazione a carico della collettività, se è chiuso è chiuso, meglio un sussidio di disoccupazione. Mi sembra che tutto il dibattito si concentri solo sull'articolo 18. Comunque torneremo a parlare anche con lei. Grazie a Carlo Della Ringa, il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, continuiamo ad ascoltare a caldo, perché chiaramente tutto il dibattito di sera, le opinioni, i commenti di chi si occupa del mercato del lavoro. Abbiamo appena salutato il professor Carlo Della Ringa, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il senatore del PD, nonché docente appunto di diritto del lavoro, Pietro Ichino, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Senatore, prima domanda è molto semplice, che ne pensa? Lei aveva un progetto di cui molte volte parlammo con lei, che ricalcava la flex security danese, cioè grande possibilità di essere licenziati ma anche grande assistenza nel trovare un lavoro.

Il problema principale più grosso non è il reperire le risorse, i soldi, ma è avere la capacità di condizionare il sostegno del reddito alla disponibilità effettiva del lavoratore per tutto quanto è necessario ai fini della ricollocazione. Questa me lo rispiega questo? Non l'ho capito. Voglio dire, tutte le osservazioni convergono nel dimostrare che quanto più alto e quanto più durevole è il sostegno del reddito al lavoratore che perde il posto, tanto più lungo è il periodo di disoccupazione. Chiaro, ho capito, adesso ho capito. Lei dice, a meno che non si controlli attivamente la disponibilità del lavoratore, come fanno nei paesi scandinavi, dove la flexicurity si basa. Vabbè, però qui è previsto che ogni sei mesi l'assegno scenda del 15%. Sì, però questo non basta. Cioè, certo, lei dice bisognerebbe disincentivare ancora aiuto, di più. Ma nei paesi scandinavi il lavoratore viene affidato a un tutor che lo segue che controlla in maniera ancora più stringente. E se noi guardiamo quel che fanno le società di outplacement, capiamo perché riescono a piazzare mediamente entro i sei mesi tutti i lavoratori che gli vengono affidati. E questo è quello che manca all'Italia e che dovrebbe essere attivato dall'impresa stessa che licenzia, per questo sarebbe importante responsabilizzare di più l'impresa che licenzia, creando quel trattamento complementare di disoccupazione che si riduce quanto più rapido è il periodo della ricollocazione allora, del lavoratore. Professore, e sui contratti, inteso come la flessibilità in ingresso, le piace, cioè, c'è stato un po' di pulizia in realtà sui contratti a termine, mi sembrano le novità più grosse. Il ministro Fornero ha detto che il contratto a tempo indeterminato resta il contratto dominante, si è pulita un po' la giungla della flessibilità non buona? Sì, mi sembra che queste misure vadano nella direzione giusta. Mi sembrerebbe che dovrebbero essere accompagnate da una maggiore appetibilità del contratto a tempo indeterminato nella sua fase iniziale, perché diciamo l'idea che se le cose non vanno bene, terminato il periodo di prova, il licenziamento può avvenire soltanto con una indennità di 15 mensilità, secondo me è sproporzionato, mentre sarebbe meglio che nella fase iniziale, nei primi 2-3 anni, il rapporto possa risolversi con costi molto minori, e questo avrebbe l'effetto di incentivare molto, cioè accompagnerebbe il disincentivo alle forme di lavoro precario con un incentivo robusto all'assunzione a tempo indeterminato. Cioè, se posso tradurre, lei dice se anche per il lavoratore appena assunto a tempo indeterminato vale la regola dell'indennizzo minimo di 15 mesi o 27 mesi, è chiaro che se tu sei assunto da un anno, poniamo, e io so che per licenziarti per motivi economici devo darti un anno e qualcos'altro, il gioco non vale la candela, tendo a preferire il tempo determinato. Se ci fosse un minor costo, lei dice, sarebbe offerto prima il tempo indeterminato. Una domanda nel finale però, senatore Ichino, perché proprio in questi giorni purtroppo abbiamo ricordato i 10 anni della morte di Marco Biagi. Oggi c'è stato un episodio gravissimo, ancora non sappiamo se la matrice è di carattere brigatistico oppure no, con il consigliere comunale Alberto Musi. Insomma, la riforma che il ministro Fornero ha presentato, la poteva presentare solo un governo tecnico? No, io penso che poteva presentarla anche un governo politico, e osservo a questo proposito che gran parte di questo progetto del governo Monti è costruito con materiali programmatici elaborati all'interno del Partito Democratico, perché è nata all'interno del Partito Democratico l'idea di coniugare la flessibilizzazione dei rapporti con una maggiore sicurezza del lavoratore nel mercato. I primi progetti in questa direzione sono stati presentati in questa legislatura da parlamentari del PD. Ecco, allora però, senatore, si capisce ancora di meno perché ci sia una parte del PD che proprio la vede con mal di pancia questa riforma. Comunque, della reazione della politica avremo modo di parlare. Io ringrazio anche il senatore Pietro Ichino, a chi continua a chiederci, l'articolo 18 viene riformato nel senso che il reintegro obbligatorio è solo per i licenziamenti discriminatori, poi ci sono invece i licenziamenti disciplinari ingiustificati dove il giudice potrà decidere se obbligare a riassumere oppure dare un indennizzo, e poi ci sono i licenziamenti economici e lì non c'è reintegro ma dalle 15 alle 27 mensilità. L'obiezione dei critici è che le aziende tenderanno a far passare tutti i licenziamenti per licenziamenti economici, poi lì starà anche al giudice. Comunque, da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani di nuovo anche su questo tema dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.